America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. I know President Putin seems to have a different set of lawyers making a different set of interpretations, but Barack Obama, il presidente americano, ha parlato ieri con Vladimir Putin e ha cercato, come dire, di convincere il presidente russo ad assecondare il piano di pace presentato dal presidente ucraino Poroshenko. Ha chiesto al leader russo di prendere le distanze dai separatisti o comunque di convincerli ad accettare il cessate il fuoco che è stato proclamato da Poroshenko e a cercare una soluzione pacifica alla tensione, alla guerra civile che sta perseguitando l'Ucraina. E attenzione, ha detto Obama, perché se no ci saranno sempre delle ipotesi di nuove sanzioni pronte ad essere applicate. E Obama ha parlato di questo proprio con il presidente francese Hollande, ha parlato con il cancelliere tedesco Merkel, dunque la pressione resta elevata. Hanno parlato Barack Obama e Putin anche di Siria, della necessità di procedere con l'eliminazione delle armi chimiche. Ecco, qual è la cosa positiva nel contesto, come dire, caotico sul fronte internazionale in cui ci troviamo oggi? Beh, che questi due leader stiano parlando, cerchino comunque delle ipotesi di soluzione, anche se poi ci siamo accorti che alla resa dei conti Vladimir Putin cerca di andare fino in fondo con le sue azioni. Tutto questo succede, questo dialogo, che ripeto secondo me è molto importante, succede nel momento in cui ci sono vari focolai gravi nel mondo. Siria, Iraq, i ribelli che si sono separati da Al-Qaeda per formare un nuovo movimento islamico, sunniti più moderati che si sono uniti a loro anche con l'aiuto finanziario e politico e logistico dell'Arabia Saudita, che vede come il fumo negli occhi l'Iran, l'Iran che cerca di espandere il suo movimento sciita in Iraq, cerca di controllare la Siria. Questi due paesi diventano stati cuscinetti in una guerra più grande, in un conflitto politico strategico più grande, quello appunto tra i sunniti dell'Arabia Saudita e gli sciiti dell'Iran. E questo solo nel Medio Oriente, senza poi contare il conflitto fra palestinesi e israeliani. In Cina abbiamo visto il Giappone e la Cina in confronto sulle isole Senkaku, questo arcipelago piccolo, disabitato, ma che potrebbe avere qualche risorsa energetica, niente di importante, ma diventa di nuovo lo spunto per esercitare aree di influenza, per affermare la propria autorità. Infine l'Ucraina, bene, abbiamo parlato, l'Ucraina è un altro dei focolai gravissimi, perché è in Europa, e vicino a noi, potrebbe dar luogo a problemi sul fronte energetico. Ecco, questi focolai, questo momento storico particolare ha scatenato una serie di dibattiti qua in America su un possibile parallelo fra quello che capitò nel 1914 ed oggi. Colpi di pistola nelle strade di Sarajevo il 28 giugno 1914, siamo vicinissimi al centenario di quell'anniversario. Un giovane nazionalista serbo, bosniaco-serbo, quindi il nazionalismo lo avevamo allora, lo abbiamo oggi, che si chiama Gavrilo Princip, spara contro l'arciduca Francesco Ferdinando, contro sua moglie Sofia, e c'è un momento di panico. L'arciduca, dice la leggenda, vede la moglie in sangue, dice: amore mio, non morire, i nostri figli, la nostra vita. Poi muore lui, muore lei, e il resto è storia. Sentiamo un'interpretazione di questi eventi da una grande storica, Margaret Macmillan, che ha scritto un libro importante sul centenario della guerra mondiale, che si intitola The War That Ended the Peace, la guerra che ha finito la pace. And the car in front took a wrong turning, and the Archduke's car started to follow, and someone shouted, no, no, don't go there, it's a wrong turning. Ecco, la Macmillan ha un'interpretazione molto interessante di quello che è successo allora, cioè vede così delle paranoie fra grandi potenze, e ci racconta come dietro questo omicidio, che avrebbe potuto lasciare in realtà le cose come erano, perché, dice la Macmillan, l'Europa viveva un periodo di pace, 100 anni di pace, dal 1815 al 1914, al congresso di Vienna, di grande benessere. Dunque era nell'interesse di tutti mantenere lo status quo e non cedere alla provocazione di un nazionalista di 19 anni. In realtà c'erano queste paranoie, l'impero austro-ungarico si sentiva un po' accerchiato, la Germania anche era molto sospettosa perché temeva che un'alleanza che era stata costituita tra la Russia e la Francia potesse in qualche modo crearle dei danni. La Gran Bretagna viveva in una sorta di isolamento regale, da grande impero, e dunque prendeva un po' le distanze da quel che capitava. Non intervenne per far sì che questa guerra potesse essere evitata. Dopodiché, e fu proprio la Germania il 5 luglio che di fatto diede l'ok all'impero austro-ungarico per agire contro la Serbia. La Serbia di origine slava, protetta dalla Russia. La Russia a quel punto entra in guerra anche lei. A quel punto è come un gioco di birilli, tutto cade. La prima guerra mondiale esplode circa un mese dopo, 17 milioni di morti, 50 milioni di morti secondo alcune stime, inclusi i civili, un ordine che finisce, l'impero ottomano che si disintegra, l'impero austro-ungarico che si disintegra, la Russia che per questa sua debolezza della guerra cede, non riesce a confrontarsi con la rivoluzione bolscevica, inizia un nuovo esperimento, insomma un disastro sotto ogni punto di vista. La domanda di fondo, vi ripeto, continueremo a parlare di questo in alcune trasmissioni che verranno, ma la domanda di fondo è: siamo in una situazione in cui questo tipo di fragilità, di birilli che cadono uno dopo l'altro, possa verificarsi anche oggi alla luce di questi focolai diversi sparsi attorno al mondo? Diciamo che oggi abbiamo le Nazioni Unite che funzionano, abbiamo i telefoni Putin e Obama che si parlano, dunque credo che ciascuno abbia la maturità, i nervi saldi per capire che è molto meglio evitare gli errori del passato, quelli della prima guerra mondiale, quelli della seconda, e di trovare delle soluzioni. Ciascuno pensa che l'altro non si spinga oltre un certo limite, per questo Putin fa quello che fa. Per cui io sono ottimista, non credo che siamo oggi dove eravamo 100 anni fa. Ma indubbiamente i paralleli sono tanti, e alla fine torniamo un po' a quello che si diceva ieri, cioè la necessità di avere una leadership. Sono i vuoti di leadership spesso che creano le guerre. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Questo centenario della Prima Guerra Mondiale deve dunque servire a farci riflettere, a ricordare che dopo ogni conflitto quello che resta è solo, per dirla con Bruce Springsteen, Devils and Dust. Diavoli e polvere, di Bruce Springsteen. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. It'll turn your heart black, you can trust. Take a God-filled soul, fill it with devils and dust. Take a God-filled soul, da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.